La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 72. Ogni disegno di legge presentata ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. L'articolo 72 riguarda il procedimento legislativo, cioè come si fanno le leggi. Il procedimento legislativo prevede l'approvazione in testo identico da parte della Camera e del Senato, quindi bicameralismo paritario perfetto. Ma le proposte di legge vanno prima esaminate in commissione e poi votate dall'Aula, dall'Assemblea, della Camera e del Senato in testo identico. Cosa significa in testo identico? Ipotizziamo che la Camera approva un testo. Il Senato poi ne modifica due articoli dei 10 di questo testo, alla Camera torneranno soltanto i due articoli modificati. A sua volta la Camera voterà su questi due articoli e ipotizziamo che ne modifica uno, quindi tornerà al Senato l'unico articolo modificato e così nelle quattro votazioni abbiamo il testo identico. Il procedimento legislativo è poi disciplinato nello specifico dai regolamenti parlamentari. Tuttavia, il punto importante è che la Costituzione stessa, prima ancora dei regolamenti, impone il voto articolo per articolo, quindi la garanzia di un esame attento e puntuale. La Costituzione, inoltre, consente anche procedimenti abbreviati, cioè che possono essere conclusi direttamente in commissione. Mentre l'ultimo comma dell'articolo 72 impone che la procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale, elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Qui trattiamo la riserva di assemblea, cioè il fatto che le leggi principali, le leggi più importanti in queste materie elencate, debbano essere sempre approvate in maniera accurata e puntuale dall'assemblea, senza procedimenti abbreviati. Il procedimento legislativo, per come configurato dall'articolo 72, è un procedimento che spesso è stato accusato di lungaggini, farraginosità, e quindi negli ultimi anni viene spesso aggirato con la cosiddetta questione di fiducia. La questione di fiducia è quello strumento stranissimo nato nei regolamenti parlamentari per cui quando ci si trova di fronte a un'approvazione faticosa, lunga, complicata, con tanti emendamenti, tante proposte, a un certo punto il governo presenta il suo testo, il maxiemendamento. Su quel testo non si possono più fare ulteriori votazioni, ma si vota tutto insieme. Si vota quindi facendo cadere tutti gli emendamenti e tutte le proposte altrui, ma soprattutto si vota per appello nominale. Quindi il governo mette in gioco la sua permanenza in carica, il Parlamento vota in maniera palese e vota senza tener conto di modifiche ed emendamenti. In questo modo praticamente si blinda il voto, perché il governo impone il suo testo. Tutte le leggi principali degli ultimi anni sono state approvate con questo escamotage, potremmo dire, con questo trucchetto procedimentale, e quindi spesso sono state accusate di violazione dell'articolo 72. Ma se noi guardiamo regolarmente tutti i decreti legge principali, tutte le leggi finanziarie e di bilancio, da ultimo anche la legge elettorale, sono sempre stati approvati con questo procedimento, la questione di fiducia con il maxi emendamento, un procedimento che in pratica aggira il sistema dell'articolo 72. Ovviamente non è facile stabilire se sia legittimo o illegittimo. Dato di fatto è che per far funzionare la democrazia parlamentare, molto spesso quando ti trovi di fronte a una decisione molto complicata, a un voto molto complicato, è più facile seguire la via della questione di fiducia aggirando quindi l'articolo 72.